I know you're gonna dig this. Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico. Ma cos'è sta paranoia? Aspetta, fammi fare. Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te. Cosa? Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico. Ok, rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap turutistico. Peteristico, stepperefistico, rap futuristico. Introduco il remix più figo del secolo, tranne te come jingle bells a Natale. Un talento tale, pista come un igienista dentale. Dalla gavetta alla vetta, dici sei commerciale, questa è la mia vendetta. Ogni frase rima vendetta, benedetta in cameretta. Hey! Mistico rap, califragilistico, pugilistico, testo culistico. Vedo doppio, in viaggio, come chi si è fatto doppio. Scrivo più di mogol, sono fuori controllo. E questo beat è come un tiro a porta vuota e gol. Faccio rap da un pezzo, tutti sul pezzo. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te. Yo, I said Red Man came to take over. I got a fly girl as my chauffeur. When I hop out the Maybach, this the payback. Hater, brush my shoulder. I'm on Oprah, look at me, wow. Kumo D, how you like me now? Los chicas de la tierra. Talking my la cabeza. Yo, I hit the hotel after the party. All the lobby like a Mardi Gras. Got drinks, smoke, Barbie doll girls. And I'm in the cut like Marley Mall. Hey, I could do what you do, time two. Your boy is back, don't have to guess who. Tomorrow I'ma do it again around two. Everybody going home, boy, except you. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te. Hey! Rap futuristico. Hey! Ça prend baba pour les mecs d'Italia. Mais si tu reconnais le feu venu de Massilia. Un accent de malade qui te fait danser le Mia. Qui fait danser les filles comme dans les clips de Shakira. Flow de pirate, champion de tirade. Viens me voir en concert et tu verras que dans ce désert, je suis pas un miracle. Complètement bâche comme Nicki Minaj. Te cache pas que j'aime pas les billages. Préfère les brocages, donc clash moi. Que je parle pas que toutes ces banques. Pour que mes enfants ont le compte en banque de la famille banque. Mais qu'il est temps que je pense à l'avenir de mes proches. Car la fin est proche et je ne peux pas rater le coche. Mais tiens la corde de Mohamed Ali face à George Foreman. Je brûlais déjà le mic à l'époque du Walkman. Un flow qui découpe comme les ennemis d'un hélico. Soprano, yeah, rap futuristico. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te. Hey, rap futuristico. E Marrakesh fra pesta, fuori di testa. Faccio un po' d'extra, grande richiesta. Intelligenza, Fabio Truffo, sai che c'ha il flow. Mara dice, bravo ma per me no. Silvia Gheddafi, ma che bella amicizia. Culo e camicia, più culo che camicia. Tutti sanno che io spacco tutto, tranne te. Un misto tra Chopin e Sean Penn. In radio c'è lo speaker, parla e penso. Parla meno e passa più il mio pezzo. È la musica del nuovo millennio. Ma tu l'ascolti e ti passa attraverso. Pipi tu, pipo anch'io. La torre di Pisa, forse il cannino di Dio. Pensavo di sostituire zio con Dio, così che tutti gridino le. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te. Rap futuristico. Nel futuro vedo bambole, bombe, bambole. I bimbi pappano la bamba da anni tre. Tutti si fanno una canna, tranne me. Mica ti farei una canna. Non ho un tetto, 30 anni e di fanni o tre. Scrivo albi speciali come grande Tex. Per i seni mangio pollo transgenico. Tutti schifano le trans tranne altre forme di vita come Star Trek. Se tu ne conosci un paio dai mandale. Con le canne che misurano spalle tre. Non coprirti dai favore. Qui c'era il savoiardo nel tuo savare. Mi circonderei di te se fossi un grande re. Hai capito? Il re, il savoiardo, dai, questa la capiscono tutti, su. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te. Non c'è niente di male se cominci a ballare. Tutti lo fanno tranne te. Spegni il cellulare. Gettami la sigaretta e la tua carta. Vieni via con me, non mi dire che hai fretta. Ho roba fresh per la di densa. Il mister è di Tixi. Suona la hit anche se molte volte